Italia in controluce. 23 novembre 1980, 30 anni fa. È una fredda domenica come tante. Le famiglie italiane mangiano e guardano il telegiornale. Le notizie della giornata, la politica, la cronaca, gli esteri, lo sport. In una radio di Avellino qualcuno sta trasmettendo un brano di folk e alle 19.35 in punto quel brano si interrompe. Un potente terremoto del 6 e 9 rade al suolo una vasta zona del sud, tra la Campania e la Basilicata. Si sbriciolano uno dopo l'altro Laviano, Lioni, Sant'Angelo dei Lombardi, Calabrito, Teora, Conza, Balvano. Lesioni e crolli si verificano a Napoli, Avellino, Potenza, in ogni luogo. Piccoli borghi antichi poco prima erano cosa viva, fatti di persone e speranze, sogni e realtà. E il 23 novembre sera non esistono più, spariti, volatilizzati. Un inferno di detriti e macerie. 280.000 sfollati, 8.848 feriti, 2.914 morti. Ma l'entità drammatica di questo sisma non viene subito valutata dai telegiornali. Forti scosse di terremoto sono state avvertite pochi minuti fa in Basilicata, nella zona del Vulture vicino Potenza. Non si conoscono ancora le conseguenze delle scosse. Non si hanno notizie di vittime, soltanto qualche contuso. Una cinquantina... Si ha solo notizia certa della morte di una donna stroncata da un infarto sulla metropolitana. Non è accettato l'epicentro del sisma. In particolare sono state avvertite due leggere scosse. Degli incendi, perché le persone per la paura sono fuggite, magari c'è stato qualcuno che ha lasciato acceso il fornello della cucina. Allora lavoravo per una radio di informazione di Milano. Decisi con l'amico e fotografo Marco De Ida di affrontare il lungo viaggio verso l'Irpinia. Per giorni e giorni camminammo tra paesi distrutti. Nelle orecchie il forte suono delle sirene delle ambulanze e delle pale che scavavano tra le macerie, e le voci lontane di persone che si cercavano, e vecchi soli davanti a ciò che restava delle loro abitazioni, cani e animali abbandonati, tra un odore forte e respirabile di morte e le urla di dolore dei familiari delle vittime. Ricordo alcune scene che hanno accompagnato poi la mia memoria di cronista nel corso del tempo. Decine di bare allineate sul sagrato della chiesa di Sant'Angelo dei Lombardi. Il paese di Laviano per centinaia di anni in collina, sprofondato quel giorno a valle. Le continue e ripetute scosse di assestamento, certe volte perfino più forti. Il primo e il secondo crollo della scuola di Sant'Angelo dei Lombardi. E poi le lunghe code lungo le strade e autostrade italiane di mezzi che trasportavano le case prefabbricate per i terremotati. L'assalto al forno di Eboli da parte di una popolazione inferocita contro le istituzioni, il racket dei vestiti usati smistati dalla protezione civile. Ma ricordo anche le parole chiare e precise dell'allora Presidente della Repubblica, Pertini. A 30 anni dal terremoto dell'Irpinia le parole di Pertini suonano ancora oggi da monito a futura memoria. Volevo dirle però che non abbiamo bisogno solo di parole. Lo so, io non le faccio le parole. Saranno i fatti che contano, ha ragione. Le parole sono vane. Ci sono state delle mancanze gravi, non vi è dubbio. E quindi chi ha mancato deve essere colpito. E mi chiedo se questi centri di soccorso immediato sono stati istituiti. E oggi? E oggi, 30 anni dopo, a che punto è la ricostruzione? Paolo Piccone dalla Campania, Gennaro Grimolizzi dalla Basilicata. La ricostruzione è andata a rilento, tanto che addirittura c'è chi è riuscito ad avere un vero tetto sopra la propria testa soltanto dopo ben 30 anni. È il caso di Ernestina Cristiano, 70 anni per 26, ha vissuto in un prefabbricato leggero, poggiato sul terreno vicino alla sua abitazione, resa inagibile da quel sisma. Pochi giorni fa è riuscita finalmente ad avere una casa. Vive da sola in via Amalfitana a Sant'Angelo a Scala nell'Avellinese e le chiavi dell'unità abitativa, simile a quelle realizzate per i terremotati dell'Aquila, le sono state consegnate dal capo della Protezione Civile Guido Bertolaso. Una visita privata, quella dell'ex sottosegretario, che il 27 agosto scorso aveva ricevuto la lettera dell'anziana disperata dopo anni di battaglie per avere una casa o qualcosa di più di un prefabbricato in lamiera esposto a tutte le intemperie. Insomma, ci vollero 90 secondi per radere tutto al suolo, ma 20 anni e 70.000 miliardi di vecchie lire per ricostruire. Se gli aiuti tardarono, la ricostruzione ebbe tempi biblici. Per i geologi campani, che l'altro giorno hanno ricordato il sisma del 1980, riunendosi a Napoli, la ricostruzione fu un'occasione mancata in termini di pianificazione territoriale. Ne è convinto Francesco Peduto, il presidente dei geologi della Campania. Non bisogna più fare certi errori che sono stati fatti all'epoca. Tanti borghi sono stati completamente distrutti, nel senso che è stata distrutta la cultura, la storia dei borghi antichi, e ci sono esempi eclatanti, come ad esempio Romagnano al Monte, che è stato completamente abbandonato ed è stato ricostruito a qualche chilometro di distanza. Un'occasione mancata, così definisce la ricostruzione post-terremoto Antonello Caporale, direttore scientifico dell'Osservatorio Permanente sul Doposisma. Il giornalista campano è da pochi giorni in libreria con Terremoti S.P.A., un viaggio nel mondo degli sprechi generati dal terremoto del 1980, che ha ampliato la frattura tra nord e sud. Il terremoto della Campania della Basilicata ha segnato il punto più alto del processo di unità nazionale. Migliaia di volontari sono venuti a darci non solo coperte e viveri, beni materiali, ma anche civiltà, educazione, democrazia. 10 anni dopo, quel stesso terremoto produsse uno scandalo il cui figlio si chiama Lega. La Lega è nata sulle ceneri del terremoto dell'Irpinia, degli sprechi del terremoto, e l'Italia si è disunita grazie anche, o per colpa anche, di quegli sprechi. Balvano, in provincia di Potenza, è l'emblema della tragedia in terra lucana. Nella chiesa dell'Assunta, la sera del 23 novembre 1980, si celebrava messa. Il boato, il crollo, le macerie. Sotto vi rimasero 77 persone, di cui 30 bambini. Il procuratore regionale della Corte dei Conti della Basilicata, Michele Oricchio, si è occupato più volte delle anomalie delle amministrazioni locali, impegnate a gestire la fase della ricostruzione. Ancora oggi, a distanza di 30 anni, la magistratura contabile è costretta ad aprire fascicoli su enti che non hanno brillato certo per efficienza e trasparenza. Certamente. Anche in relazione all'enorme flusso di denaro pubblico che è arrivato nelle zone terremotate in questi 30 anni, credo si possa affermare senza tema di smentita che il terremoto, fatto disastroso in sé, non sia riuscito a costituire un'occasione utile per rilanciare le nostre terre. Probabilmente io ho questa impressione, anche perché si è voluto tentare di introdurre forti elementi di industrializzazione in zone che non avevano non solo le infrastrutture, che sono state soltanto parzialmente realizzate con costi abnormi, ma anche perché probabilmente non andavano a combaciare con il tessuto socio-economico del posto. 30 anni dopo l'Irpinia, troppe ferite sono ancora aperte, troppi buchi neri, troppi problemi risolti. Anna Rita D'Ambrosio. Ricostruire. Le vite no. Quelle di chi ha vissuto un terremoto devastante restano lesionate per sempre. Perché è una vita diversa e c'è un prima e un dopo. Un prima che non torna più. Ricordo il mio risveglio il 24 novembre del 1980, dopo una notte in auto, la prima di una lunga serie. Ero una dodicenne che si ritrovava d'improvviso più grande. Dei giorni successivi ricordo le numerose perizie degli ingegneri del comune, la paura per le nuove scosse, soprattutto il mio viaggio nella Basilicata ferita a casa dei nonni, a Bella, 30 chilometri da Potenza, solo 10 da Balvano, dove la chiesa del paese si era sbriciolata quella maledetta notte, seppellendo 77 persone. Lì trascorrevo ogni anno parte delle mie vacanze. Le perizie venivano effettuate inserendo pezzi di vetro nelle lesioni aperte all'interno delle case. Se il vetro restava integro, tutto ok. Se si rompeva, era il segno di un lento smottamento che avrebbe poi portato al crollo. I vetrini della mia casa si ruppero dopo 15 minuti. Il palazzo venne abbattuto poco dopo e noi, d'estate, finimmo nei container. Parallelepipedi di cemento e purtroppo anche di amianto. Come vivere in una carrozza di un treno, due stanze, un bagno, d'inverno troppo freddo, d'estate troppo caldo. Io ci trascorrevo solo pochi giorni, ma oggi che 30 anni sono passati, mi fa male ricordare che c'è chi vive ancora lì, ad Auletta, Sant'Angelo di Conza, persino a Portici, periferia di Napoli. Anche a Bella ci sono ancora i container, ci vivono gli extracomunitari. E la mia casa, consegnata dopo 13 anni, lì dov'era, e questo è già una conquista, non è la casa dove sono cresciuta. È un palazzo di 7 piani, ai soffitti troppo bassi, dove i mobili di mia nonna non sono entrati più. Mobili nuove, vite di chi in un container è nato. E la Bella dove sono cresciuta la vede in una foto di 30 anni fa.